Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Dovevo prevederlo. La mia transumanza, ormai prolungata da vari mesi sui treni d'Italia, mi ha dato una certa notorietà. Cominciano a riconoscermi, ormai le persone in treno mi vedono, dico: ah, quello del treno va, è quello che viaggia, è quello che c'è una donna che l'aspetta alla fine del binario. E qualcuno mi ride in faccia, qualcuno trova questo molto divertente, molto ilare, e io devo dire abbozzo, perché in fondo ogni persona che mi rivolge attenzione per me sono 10 minuti buoni di trasmissione che riesco a coprire. E quindi la ragazza che mi occhieggia, la ragazza che sembra divertita, la ragazza non vede l'ora di raccontarmi la sua storia, è la mia vittima prescelta. Beh, quindi hai dei segreti che non vuoi che io ti capisca. Sì. Non voglio sapere qual è la sfera delle cose segrete per te. Le cose d'amore, naturalmente. Beh, sono segrete. Sai, la verità è questa: che praticamente ho preso una cotta per un ragazzo. No, davvero, è cosa strana. Succede mai. È soltanto che è una situazione un po' particolare. Sono sempre particolari. Lo so, però questo è maggiormente particolare. Qual è il problema di questo ragazzo? Cioè, è un bel ragazzo, è interessante, sì. Insieme a un principe. Soltanto che... Questo così lo vedi te, però, lo sai. Ma non è detto. Hai molte concorrenti? Sì. Penso di sì, che ci possono essere. Ci Beh, lui sa della tua esistenza? No, lui non sa della mia esistenza. Il problema è questo, che ha un nome e un cognome che non possono andare. Cioè c'è un problema di base. Montecchi e Capuleti, quali sono? Nemici, no, di famiglia. Peggio. No, peggio. Che... Peggio, molto peggio. Non voglio saperlo, ma qual è la sfera dell'impossibilità? Il cognome non può andare. Vabbè, a come parte si anche chiama? Il nome si chiama Lino, cioè si Lino. Può chiamare Lino uno. Vabbè, Lino. Lo so. Ma è un diminutivo. Non credo. Pasqualino magari si chiama, no? No. Lino. Non lo so, Lino. A me hanno detto Lino, però. Tu sei solo, si chiama Lino. E questo ti inibisce. Sì, il problema è che non è solo il nome, anche il cognome che... Adesso non lo dire, mica hai problemi. Fammi capire cosa c'ha di ignominioso questo cognome. A cosa assomiglia? Vediamo se capisco, senza che me lo dici. Potrebbe, diciamo, richiamare due tipi di sfere. Allora, una... Sfere nel senso di... Una di arredamento, no, una di arredamento, più che altro. Divano, cosa così. Qualcosa di sedia, simile. Poltrona. No, è un po' più tavolino. Ricercato, però, nel senso non è una cosa così... Abajur. No. Si chiama Abajur. Lino Abajur. Trumeau. No. Console. No. Vabbè, una, è così, questo. Ti sì, dà o se no anche di alimentare, qualcosa di alimentare. Ma di alimentare cos'è? Un latticino, un insaccato? Si assomiglia all'insaccato. Più assomiglia che salami? No. Mortadelle? No. Prosciutti? No. Coglioni di mulo, che sono quelli col pepe sopra che vendono nei caselli dell'autostrada. No. No. Ho detto le è cose qualcosa peggiori. Di suino, però si vicina. Capocollo, coppa. No. Salsiccia. Vabbè, te lo dico. Lardo. Te lo dico io. No, voglio indovinare. Ah, ok, allora. Qualcosa di suino. Sì. Coda di maiale arricciolata. No. Lingua di maiale. Cotica. Lardo. Lino cotica. Strutto. Lino cotica. Salami no, abbiamo detto. Capocollo. No. Lonza. Vado io. Lino lonza. No. Lino lonza, però è carino, LL. Come invece? Lino guanciale. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Beh, guanciale anche per dormire. Cioè, oddio, non è che stimoli molto l'attività sessuale lino poi guanciale. Capisci che io il mio cognome è Imperiali, cioè nel senso posso sposarmi con uno che si chiama Guanciale. Imperiali in guanciale. Tu come ti chiami di nome? Chiara. Chiara Imperiali in guanciale. In guanciale. Lino Guanciale, vuoi qui sposare la presente Chiara Imperiali? Sì, lo voglio. Chiara Imperiali, vuoi tu sposare il presente Lino Guanciale? Ma magari si potrebbe fare un cambio, ma tipo Guanciale, beh, ti fresca, Lino Imperiali, che mi prende il mio cognome, che magari è un po' più cioè importante. Te, ma cosa c'è di, insomma, cosa ti attira da questo ragazzo che basta il fatto si chiami Guanciali che già... No, tutto questo charme particolare. Ma perché che fa? Cosa fa? Il parrucchiere? Cosa fa? No, non fa il parrucchiere. Personal trainer? No. Cosa fa? Non si può dire. Vabbè, più o meno, fammi capire che attività. Il massaggiatore? No. Lo spurgatore di pozzi neri? No, un po' più famoso. Ah, il cantante, l'attore. Beh, non... Guarda, nello star system di mia conoscenza, un Lino Guanciali non esiste. Non esiste. Lo so. Va a suonare, va a cantare e suonare nei locali? No. Recita? Recita dove? Nelle soap? Nelle fiction? Vabbè, stai con il famoso attore Lino Guanciale. Cioè ti piace? No, a me piace. Ma lui dove lo leggi lui? C'è qualche giornale che ne parla delle gesta? Sì, molti sì. Giornali. Che giornale? Non noto. Lo vedi in TV anche. Ma anche da mia lacuna che non conosco Lino Guanciale. E ti piace? Aspetta, ma vado a cercare adesso mentre parli sullo smartphone. Lino Guanciale. Lo sapevo che mi vale. Dai. Vabbè, tu com'è nato questo amore? È nato che niente, l'ho visto. Io sto cercando intanto. Dai, l'hai visto? Dove l'hai visto? L'ho te? Visto in televisione? Per caso, no. Sì. L'ho incontrato una volta per strada, per caso. E lui ti ha guardato? Ci siamo guardati. Però vabbè. Guarda, la prima voce è Lino Guanciale fidanzata. Ecco. C'è anche una fidanzata. No, esiste davvero. Vabbè, tutto può succedere però nella vita. Esiste davvero Lino Guanciale. Treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Questo qua è con sto ciuffo in testa. E che c'ha di bello? No, devo dire che alcune parti è molto. Chi è Lino Guanciale? Biografia e vita privata, ecco, dell'attore. Finita. Volete sapere? Autore dei Fiction Rai. Ah, beh, vedi. Lino Guanciale, vita privata, ecco. Lino Guanciale, ecco. Wikipedia. Ma esiste. Posto. Lino Guanciale, vita privata. Vita amore, privata, adesso spulceremo tutta la sua segreto vita privata. Segreto a distanza finché... Però ce l'ha una fidanzata, vedi. Vabbè, però, sai. Lino Guanciale, siamo una commedia. Beh, comunque, un attore, Lino Guanciale, ce l'ho davanti. Così almeno capisco di chi sei innamorato. Beh, scusa, non è un problema, è un nome famoso. Se anche fosse un nome Guanciale, è un nome famoso. Ma tu cosa fai adesso? Cioè, tutti i filmati di Lino Guanciale ti riguardi? No, basta vederlo in TV, lui fa una... Sì, una fiction, sto esatto, so tutto. Sei tutto. Adesso ne faremo sentire anche un pezzettino. Ti piace questo signore? No, un bel ragazzo, poi mi ricordava anche un mio ex ragazzo. Ma tu dove l'hai incrociato? Per caso, in strada. E l'hai fermato? Cioè, tu sei no, un guanciale? No, non ho avuto questo coraggio. Che speranza hai allora? Nessuna. Lo so, però mi piaceva raccontare questa cosa. Ma lo sogni la notte, pensi al Lino Guanciale? Certo, penso al guanciale. Ti stringe al guanciale. Sul guanciale, esatto. Ti stringe al guanciale e dici Lino. Ah. Sì. Non sa manco chi sia, non sai. Lo so, però sì, allora, a volte non serve sapere. Possiamo aiutarti, vuoi che telefono al Lino Guanciale, trovo il numero. No, vediamo il tuo sogno, però il tuo sogno no. Il tuo sogno risposto, che tu un certo giorno squilli il tuo telefono e dice sono Lino Guanciale. E cosa saresti disposta a fare in quel momento? Lui ti invita perché è un ragazzo raffinato. È un ragazzo raffinato, dai, sì. Si può dire, dai, insomma. Sembra... La fidanzata è bella però, vedi. Beh, non l'ho mai vista. No, guarda. Ma chi è? Francesca Ghillemi quella. La fidanzata. Ma no, ma lì perché ha recitato con lei, non è... Vabbè, sai, quando recitano poi un assaggino... però un assaggino non è detto che insomma... Tu glielo daresti l'assaggino? Glielo daresti l'assaggino? Che domande sono? È domanda, no? Per sapere. Sì, glielo daresti. Ma non lo so, sì, cioè ci conosciamo, vediamo, non... Cioè, usciresti una sera al buio con Lino Guanciale? Lo sai qual è, non è che... No, al buio nel senso, sì, tu sai chi è, ma non sai com'è il carattere. Magari è un violento, magari, che ne so, non ti piace, noioso. Beh, se non mi piace, poi insomma uno si magari conosce. Magari gli puzzano le ascelle, uno, grazie, arrivederci. Vabbè, che fai, dici, ti puzzano le ascelle, me ne vado? No, sto lì, chiacchieriamo un po', poi, insomma, se non è il caso... L'odore è un po' pesante. E se l'odore è un po' pesante, va bene. Ti passa la voglia. Lo so, vabbè. No, vediamo. Tanto l'ho conosciuto, però. Sì, ma ti sarei fatta un film nella tua testa dell'incontro con Lino Guanciale, come lo immagini? Ma non lo so, incontrarsi, non lo so, questo in realtà non ho fatto un film preciso. Sto cercando Lino Guanciale nudo per vedere come. No. Cioè, saprei tutto di quello che c'è. Sei tremendo, cioè. Lino Guanciale nudo, c'è, guarda. Cioè, ha fatto anche qualcosa di. Non lo sapevo. C'è un filmato su YouTube. Eccolo, guarda. C'è Lino Guanciale sotto le coperte. La dama velata l'ha fatta lui? La dama velata l'ha fatto lui, ecco, adesso lo sponsorizzo anche. La dama velata? Su Rai 1, martedì sera. Grande, ecco, sto guardando un pezzo di Lino Guanciale. Senti, ecco. Non gli parte l'automobile a Lino Guanciale? Non gli parte, vero? No, non gli parte. Beh, non è che faccia granché, guida un'automobile e arriva al mare. C'è una bottiglia, sarebbe l'immagine perfetta. Ecco, Lino Guanciale ha letto con la fidanzata, vedi? Dai, guarda. Sì. Ecco, dormono. Beh, non è che è molto espressivo, dorme. Certo, sti capelli, sta frangia sulla faccia. Però nella dama velata ce l'ha tutti. Guarda, qua è nudo, guarda, vedi? Eccolo. Vedi? È lui. Che ti sembra? Carino. Si vede poco, non si. E qua è come nudo, da dietro, guarda. Si è alzato in piedi. Sì, è lui. Ecco fatto, finita la scena. Sta scavalcando il muretto. Molto breve. Beh, poi l'hai visto, un attimo, visto? Un attimo. Cioè, un po' peloso, però. No. L'uomo, come si dice? Ad appuzzare. Allora con quel suo problema di ascelle ti piacerà. Tu ridi, però, scusa, mi hai raccontato di un amore disperato come se fosse un segreto, con una persona che è anche un mezzo VIP. Vabbè, volevo creare un po' di suspense, sai com'è. Ma perché non provi a chiamarlo? Ma sì, ma non... Avrà un profilo Facebook? Ma non lo so, mi ma basta immaginarlo, che sono una sognatrice. Ma mi prendi in giro, non te ne importa niente il Lino Guanciale, vero? È uno scherzo, mi prendi in giro. No, non è uno scherzo, è che mi ricordava molto un mio ex, quindi per quello. Ma è meglio o peggio? Associato. Meglio. Vabbè, questo è un attore. Beh, è un attore, sì, vabbè, anche questo ragazzo non era un bel tipo. E perché ti ha lasciato? No, ci siamo persi di vista, non ci siamo, ci frequentavamo, poi... C'è una botta ogni tanto, così era. Ma per favore, per favore. Non siamo così scurrili. Con un fidanzato come si fa a perdersi di vista? Ci si lascia. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. No, non ci siamo lasciati perché non stavamo insieme, stavamo frequentando. Ah, non era un tuo fidanzato? Sì, era un... Vabbè, tu hai una visione del rapporto molto labile. Non è, mi hai detto un fidanzato. E tu un ex ragazzo. Beh, un ex ragazzo, anche un ex ragazzo. Un ex ragazzo, una frequentazione, come devo dire. Uno che conosco. E ti vedi ogni tanto. No. Vabbè. No, ci stavamo conoscendo, era un inizio, poi insomma è andata così. Cioè, siete usciti due volte e poi è andata cannato. Non sì. Proprio, no. Ci t'ha siamo... detto, non è il caso di andare avanti. No. No, ci siamo rincontrati proprio. E che ha detto, scusa, avevo perso il tuo nome. No, sì, esatto, è andata una cosa un po' che sì, ci eravamo persi un po' di vista. Beh, ci teneva molto a te comunque. Ha avuto modo di pensare, no? Vabbè, ma nella vita non è detto che uno per forza... Ma tu secondo me hai fatto uno sbaglio, hai ceduto subito tutto quello che potevi cedere. No, io non ho ceduto più niente. Quindi sempre a pensare male qui. No, cioè. Mai. Quindi voi non gli piacevi proprio a priori? No. Eh no, se no, perché almeno una volta ci veniva, no? Ma non lo so, insomma, andate a fate delle idee degli uomini. Ci facciamo delle idee, ma no. Ma cioè, gli uomini vanno anche frequentati, assaporati, sennò che non saprai mai alla fine cosa c'è dietro il guanciale. Esatto, quello c'è ragione. Su quello c'è ragione. Non hai torto. Vabbè, imparerò per la prossima volta. Gli metti un guanciale sulla faccia, anche se poi non è il massimo. Per la prossima volta mi ricorderò. Sì, ma c'è qualche storia un po' più concreta da raccontare? Non c'è niente da raccontare, guarda. Fine. Che possiamo raccontare? Vivi i sogni. Vivo di sogni. Tu, secondo me, dei modelli troppo alti. Voi sono ragazzi bellissimi, fantastici, no. Sognatori con la frangia sopra la faccia che fanno gli attori, belli. Cioè, un ragazzo normalmente interessante lo conosci? No. Ma come sbatti nervosamente sul tavolino? Non lo conosci? Ma sì, potrei anche conoscerlo qualcuno. Cioè, deve essere un pochino più di bocca buona. Un consiglio, bocca poi. Bocca buona, anche sì. No, tu cerchi sempre queste persone irraggiungibili. Trova un ragazzo simpatico, carino, che sia un bravo ragazzo. Modesto, magari, anche se c'ha gli occhiali, c'hai le gambe a X. Un po' nerd, dici. Un I po'... nerd tirano tantissimo. Tanto come... No, i nerd non ti piacciono. Il ragazzo studioso, intelligente, no? Sì, sì, anche, però deve avere qualcosa. Bello e maledetto. Prende. Beh, troppo maledetto no, perché sennò. Bello e basta. Bello e interessante. Ma l'interesse laddove si nasconde in un uomo, secondo te? La parte interessante. Perché Stollino Guanciale sarà famoso, caruccio, ma l'interessante è interessante quanto può esserlo. Che ne sai, perché lo conosci? Il cestino dei rifiuti di qua accanto a me, dove metto le bottigliette vuote. Perché lo conosci? Ma no, ma si vede, dai, che. Pare. No, dici, non è. Ma non lo non so. Ha l'occhio. Non dici... mi sembra quello spessore umano. È un attore, fa il suo mestiere, giustamente, ma fa benissimo il suo mestiere. Uno si innamora di una persona, no di un personaggio. Qui, no, tu conosci questo persona... è vero. Certo, che ne sai? Certo. Ma magari è una persona ottima. Però te ti piace perché è fighetto nelle fiction, è solo per quello. No, vabbè. Non c'è niente di male, non devi sentirti. Vabbè, questa è una cosa, insomma, sì, divertente da raccontare. Sì, ma non è che questo ti accompagna concretamente nelle tue ma giornate sì, lo so, certo. Di ragazza sola e ci disperata. Ci mancherebbe, disperata. Mi dedico a altre cose, insomma. Dimmene vita. Una. Beh, non lo so, io studio farmacia, quindi. Stai studiando farmacia? Sì. Vuoi diventare una farmacista? Vorrei intraprendere quel campo farmaceutico. Ma c'è la farmacia del tuo? Non ce l'ho la farmacia, sono una povera sfigata. E se non c'è la farmacia del tuo, che lo fai fare? Vabbè, però mi piace la professione, che devo fare? Non è che uno per forza... E cos'è che ti attira da farmacista? Vedi un sacco di gente. Mi piace, no, mi piace anche, sì, a parte il rapporto che hai con le persone. Vabbè, sai che rapporto, nella vecchia voglio le supposte, nel vecchio voglio il catetere. Ma che aiutare misura? Il prossimo, aiutare il prossimo. Vabbè, che aiuti, tu sei l'ultimo anello della catena. Vabbè, cioè, grazie. C'è stato un medico, sei beh, quella che gli dà la, proprio, chi dà la medicina, senso, fine. Grazie. Cioè, grazie un distributore self-service davanti a una farmacia fa la funzione di chi sta al banco e dà la roba, scusa, no? Vabbè, ma mi hai eluso comunque con una banale lettura di tipo professionale la tua catena amorosa che è la mia catena amorosa. No, è tu nascondi questa, qualcosa. Io non nascondo niente, sono una ragazza normale. Quindi allora tu ti celi dietro queste immagini oniriche, ipotetiche, iperboliche per non affrontare la realtà che è fatta di ragazzi normali con la pancia, un po' schifosi, che si scaccolano, queste cose qua. No. Ma non lo so. Vabbè, ridi sempre, tu ridi troppo. È una che ride, disattiva i sensori. Mi fai ridere, che devo fare? Non c'è niente di peggio dire no, mi fai ridere. Non dir mai però. Se incontri il guanciale. Ma come? Alcuni sono contenti. Se incontri il guanciale e concedi a lui i tuoi cuscinetti. Mi raccomando, non lo fa ridere, perché un uomo che ride è disattivato. L'uomo deve sempre avere questo senso tragico, capito? Madonna. Vabbè, imparerai. La vita sarà con te. Sarà con te generosa. Quando sei al banco. Si spera che insegni qualcosa di più. In un giorno guanciale mentre tu stai al banco magari della farmacia. Fatemi questa sorpresa, dai. Me ne dia una scatoletta in farmacia. Una scatoletta extra small, come rimasti? Extra small. Di quei presidi maschili che si usano. Dai, no. Speriamo animali. Di no, la pillola blu, dai, no, quella. No, altre cose che si infilano, extra small. Ok, extra small, ok. Rimani male. Lo so, la vita potrebbe presentare anche questa. La vita cose. È piena di sorprese. Vabbè, dai, non certo. Voglio infierire. Ciao, cara. Ciao, alla prossima. Ciao. Thursday morning ends another dream. Yesterday goes away, leaving only half a memory. Yesterday goes away. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Devo ribilanciare. È un po' di tempo che incontro soltanto ragazzine. Per me ragazzine sono quelle che stanno al di sotto dei 50 anni, è chiaro. Anche la connotazione anagrafica ha il suo peso in questo. E quindi rivolgo la mia attenzione a una viaggiatrice ascoltatrice che aveva un problema da sottopormi, che poi non è un problema, è più che altro la voglia di raccontarmi la sua storia. Donna separata che alla fine passa una sorta di educazione sentimentale 2.0, iniziando a riconoscere gli uomini attraverso quelle che sono le sue protesi emozionali informatiche. Sono Giovanna, ho 40 anni, sono stata sposata per 15 anni, attualmente da un anno e 3 mesi sono single. Subito dopo la separazione, dietro consiglio di un'amica, mi sono iscritta a una chat line, chiamiamola così, di quelle abbastanza protette. E ho incontrato di tutto, nel senso, ho incontrato virtualmente persone che si sono, ti dico, masturbate in diretta. E poi ho incontrato anche fisicamente 2 persone, di cui una è un ragazzo di Firenze che è venuto qua nella mia città, con cui c'è stato un pranzo velocissimo, poi un altrettanto veloce incontro in un parcheggio di un magazzino. Io sapevo benissimo come si sarebbe concluso l'incontro, quindi non avevo alcuna aspettativa, anzi... È stata una cosa, da una parte se uno vuole squalli, dall'altra no, perché comunque in certi momenti ti può servire sentire che c'è una persona che comunque vabbè, per quanto magari cerite un altro era lo stesso, che però ti desidera in quel momento e quindi non avendo capito il tipo e avendo capito la situazione stava bene anche a me. È finita così, con un incontro che è qualcosa di più di una chiacchierata, anche se c'è un'implicazione orale, in un parcheggio. Atto di abbrutimento, una donna che non si vuole bene, no, semplicemente ha voluto fare questa esperienza di incontrarsi con uno sconosciuto, andarci a mangiare qualcosa assieme e congiungersi, come è stato possibile, sul sedile di un'automobile in un parcheggio velocemente, perché anche una donna se lo può permettere. È uno sfizio non soltanto maschile quello di provare la gioia randagia di un incontro non finalizzato altro che una scoperta. Abbandonato internet, ti guardi intorno e scopri quello che magari non hai mai notato, nel senso d'estate in piscina scopri il vicino di casa, gli uomini sposati che non si fanno alcun tipo di problema e soprattutto ho incontrato uomini comunque piacevoli, non a 50 anni giri e sono sfigato e non hai mai avuto una donna, no, fondamentalmente insicuri, ecco, con questa sorta di ansia da prestazione. Per paradosso ho trovato uno che si giustificava dicendomi che lui deve essere solo innamorato, ecco, e quindi quella che era la scusa della donna è diventata secondo me la scusa dell'uomo, in situazioni che secondo me ormai si sono capovolte. Secondo me l'uomo, perlomeno quelli che sto scoprendo io, arrivati dopo i 40 anni, hanno paura, si sanno confrontare solo col loro aspetto fisico e quindi con i primi cedimenti che sono fisiologici vanno in paranoia. Cercano scuse che non servono, perché nessuno, io non sono una persona che assolutamente chiede o rinfaccia o ha bisogno di dimostrazioni o anzi. L'uomo fugge da una donna che non mostra necessità, che ha pari merito, nel senso io sono qua perché ne ho voglia, tu sei qua perché ne hai voglia, non dobbiamo dimostrarci niente e domani possiamo comunque continuare ad essere amici o a salutarci per le scale o a incontrarci in banca. Ecco, la nostra amica naturalmente ha messo il dito nella piaga. Sì, siamo molto bravi per cose fuggevoli, per cose fermate al semplice aspetto performativo. Anche per noi ormai la prestazione è molto legata a dei supporti tipo chimico, quindi non è più legata né al desiderio né alla rappresentazione di una nostra reale partecipazione. Quindi quando poi si vuole approfondire una relazione che diventa qualcosa di più, qualcosa in cui bisogna prendersi delle responsabilità, gli uomini diventano tutti dei bambini, tutti dei ragazzini, non si vogliono prendere le loro responsabilità. No, ma non è così. Hanno altre 100 donne disponibili ad andare nei parcheggi. parcheggi, perché dovevo perdere tempo con questa unica che poi vuole magari una storia che duri per tutta la vita, con implicazioni sentimentali, amorose, di vita comune, di frequentazione fino alla fine? No, non è così, cara mia. Ormai gli uomini sono staccati completamente dalla loro responsabilità, è giusto che le donne si stacchino completamente anche dal loro giusto riservo di mantenere sempre un atteggiamento. Buttati felice nelle tue avventure e non pensare più a un uomo nella vita. Già ne hai avuto uno e ti è dovuto bastare. Io parlo bene e razzolo male, come sempre ho fatto nella vita. Prendo in giro l'ascoltatrice che in realtà attraverso i supporti informatici scopre una nuova dimensione della relazione, ma in realtà è atteggiamento e pratica che ho perseguito per lungo tempo della vita, tanto che una volta decisi persino di presentarmi a una clinica specializzata simulando a me stesso che fossi un compulsivo dipendente da virus informatico che aveva fortemente limitato e danneggiato la mia capacità di percepire il mondo. I maschi incapaci di dare gloria a donne leggere cercano piuttosto qualcuno che alleggerisca loro stessi. L'uomo difficilmente sa essere leggero. E le uniche donne che ancora si prendono l'onere dell'alleggerimento maschile sono quelle votate al martirio, le complesse autodistruttive, le disperate e le prostitute. Ho fatto il test di Kimberly per valutare il mio grado di dipendenza dalla rete. Sono arrivato molto vicino ai 100 punti, il livello di guardia per cui si consiglia di farsi vedere. Sono convinto di stare bene, ma ho deciso di presentarmi lo stesso al Day Hospital di psichiatria del Policlinico Gemelli. Ho scelto non a caso la struttura che si è meritata l'onore delle cronache per aver aperto il primo sportello pubblico per i malati come me, chi più chi meno. Ho evitato di farmi la barba per 2 giorni, sperando così di essere preso sul serio. All'accettazione accendo e tengo ben in vista il mio palmare. Mentre faccio la fila, aggiorno il mio stato su Facebook e scrivo: «Sto per ricoverarmi in clinica psichiatrica». E per caricare meglio l'evento di significato aggiungo una mia foto dove brandisco una motosega. Faccio in modo che ognuno possa vedere le mie azioni. Pretendo la visita e sono accontentato. Un giovane psichiatra, ricercatore alla Cattolica, mi accompagna in una stanza e mi fa accomodare. Pretendo il lettino, ma mi spiega che quelli belli bianchi che vedo servono per fare le flebo ai tossici. Posso anche accontentarmi di una sedia. Mi ascolta con attenzione. Forse ha la sensazione che possa prenderlo un po' per il naso, ma non mi interrompe mentre snocciolo i miei sintomi, peraltro veri. Ho iniziato una 15 anni fa. È stato un crescendo. Ora sto attaccato al computer almeno 6 ore al giorno. Gestisco una 10 migliaia di contatti in Facebook. Sono stato anche per 2 mesi dentro Second Life. È grave? Il dottore mi guarda da dietro la sua barbetta grigia come per dirmi: «Ma proprio oggi dovevi venire a farmi perdere tempo?» «Lei stia tranquillo, che sta benone. Non rientra in nessuna delle 5 categorie a vero rischio, a meno che non mi nasconda che giochi online o che sia un consumatore compulsivo di cybersex o pornografia. Naturalmente smentisco, ma chiedo quanto possa nuocermi il multitasking relazionale con i miei molteplici contatti virtuali. Pare che a motivare il nuovo presidio sia che i social media allontanano dalla realtà. E dove starebbe il male? Non vorrei che i social network siano stati ancora una volta aggiunti all'elenco delle attività da mettere all'indice, ma solo perché istigatori del pericolosissimo piacere dell'evasione. La recente umanità già conosce stimoli indicati come nefasti per il nostro corretto equilibrio, dai romanzi d'avventura, ai fumetti, alla TV, ai videogames, tutti i supporti d'immaginario che in varie epoche si sono passati tra loro il testimone di deleteri istigatori a sollevarci dal rigore quotidiano. Non sono sicuro che riuscirò a vedere altre mutazioni evidenti negli anni che ancora lambirò. Già mi dovrebbe bastare essere nato con i muti latini minacciosi appesi alle pareti di scuole e a quasi 60 anni sentirmi a pieno titolo un civilizzato digitale. Ciao, io mi chiamo Claudio, faccio il portiere d'albergo a Modena da 23 anni. Una volta diciamo che fra le coppie si riusciva anche a trovare posti appartati per strada o sulla spiaggia o in un prato, adesso con i tempi d'oggi ovviamente la coppia cerca più che altro tranquillità, quindi sceglie l'albergo come meta preferita. E fra le coppie, appunto, la tipologia che li distingue è quella lì dei fidanzati assolutamente regolari. Sono spesso ragazzi giovani, quando arrivano in albergo si riconoscono per il fatto della loro, chiamiamola, solarità, cioè un rapporto che non ha nulla da nascondere. E le coppie clandestine, che invece secondo me sono di gran numero superiore e che appunto sono di tipologia completamente diversa da quelle ufficiali. Gli eventuali mariti o mogli che si sentono tradite o che hanno fiutato il tradimento nell'aria iniziano a fare magari delle telefonate in tutti gli alberghi, inventandosi telefonata tipo: buongiorno, mi chiamo Tizio Caio, ieri sera sono stato in albergo con la mia signora e ho dimenticato un bracciale, una collana, un orologio, quant'altro, può verificarmi? La signora si chiama. Allora in quel caso deve incombere la professionalità del portiere, che deve fiutare l'inganno e che quindi, avvalendosi proprio della legge sulla privacy, signore, noi non possiamo dare questo tipo di notizie, se viene qua di persona ne possiamo parlare. Capita anche che con le coppie, anche se sono clandestine, in genere con l'uomo, si crei questa sorta di complicità dopo un po' di volte che frequenta l'albergo, si diventa un po' amici. Talvolta mi è capitato di lavorare in un albergo che aveva un corpo centrale praticamente e due palazzine che fungevano da dépendance. Allora questo signore, che era solito venire con la sua amante, è andato in una di queste palazzine e poi è arrivata la moglie, che io conoscevo, ha preso l'altra palazzina, un'altra camera con il suo diamante. Allora, vista proprio la complicità che avevo o l'amicizia che avevo con questo signore, ho dovuto chiamarlo su e dirgli: senti, non uscire per adesso perché c'è della gente dell'azienda che ti conosce e quindi ti chiamerò io quando puoi andare. Oddio, sembra il testo di una celebre commediola francese, l'albergo del libero scambio, in cui c'era questa sorta di albergo ore in cui accadeva di tutto. Naturalmente i vincoli familiari e affettivi delle persone che lo frequentavano, con altrettanti vincoli clandestini e furtivi, si incrociavano continuamente. Non so quanto ciò risponda a fantasia, sono un po' come le chiacchiere dei tassisti. Ogni tassista con cui entro in confidenza ti racconta sempre di una bellissima passeggera che a un certo punto di una corsa notturna si apre la pelliccia, il cappotto, il piumino, si mostra nuda e dice: il mio uomo mi ha tradito e ho giurato che andrò con il primo che incontrerò. Tocca a te, o valente tassista. Sempre la solita, io a tutte le latitudini, in tutte le città d'Italia, ho sempre trovato un tassista che mi racconta questa storia, quindi troverò sempre un portiere d'albergo a ore o albergo lecitamente connotato in clienti che vanno, frequentano per la durata di una notte, che mi racconta la storia della moglie e dell'amante che rischiano di incrociarsi nello stesso luogo di clandestini con nubi amorosi. Le coppie, diciamo, quelle lì clandestine, arrivano, che ne so, con occhiali da sole anche se c'è pioggia, con soprabiti un po' che camuffino l'aspetto, con auto separate, o arriva prima una poi la raggiunge l'altro o viceversa. C'hanno sta grande angoscia delle registrazioni, registrazioni dei dati personali, e che ovviamente nell'albergo nulla trapela di tutto questo, però loro si sentirebbero molto più sicuri se potessero avere questa sorta di clandestinità, proprio dell'anonimato più totale. Però molto spesso capitano dei soggetti che sono assolutamente strani relativamente alle coppie. Per esempio, una volta c'è stato un signore che aveva 62 anni, 63 anni, che era venuto in albergo con la figlia, che figlia non era, e si vedeva lontano 2 chilometri. C'è poi anche un altro tipo di coppia che, quando si lavorava soprattutto al mare, distinguevamo subito quelle lì che stavano per sposarsi e che cercavano una, usando un termine odierno, una location dove fare il loro matrimonio. Allora praticamente quando uscivano dalla macchina vedevi questa grande, si tenevano per mano, avevano questa solarità, questo sorriso appena uscivano, perché stavano per fare qualcosa di bello che si percepiva proprio a metri e metri di distanza. Tant'è vero che con i miei colleghi, scherzando, dicevi: oh, questi sono qui per un matrimonio, fateli tu, vedili tu. È divertente quanto sia relativo il termine di clandestinità, o la percezione che uno ha di compiere un atto clandestino quando va in un albergo con amante, compagnia varia, fidanzate, mogli di altri o mariti di altri e via dicendo. c'è sempre un portiere d'albergo che in realtà è molto più che un semplice passadocumenti e fornitore di chiavi del luogo delle delizie, qualcuno che registra, che memorizza, che racconta, che chiacchiera, che vede, che rivede. E quindi è il maturo signore che pensava nella sua più profonda illusione che passasse la storia, che ogni tanto andava a fare i compiti con la nipotina, è stato ferocemente sgamato, e due fidanzatini che cercano un nido d'amore probabilmente sono stati anticipatamente segnalati nella loro illusione di poter trovare poi l'eternità in una stanza d'albergo. Sing a haunting refrain. I am a lady from Mars, and I can unscrew the stars. I can be anything that I see. Il treno va. Ed eccoci arrivati all'attesissimo momento dell'audiolettera, il momento in cui mi trasformo in un suggeritore di vicende amorose, ma più che altro di un demolitore di illusioni amorose. L'amica che mi scrive oggi non ha un problema, ma in realtà ha una sua reale, concreta e spassionata percezione di quanto siano impalpabili e soprattutto indecifrabili i punti di vista dei protagonisti di una storia d'amore. Ha fatto un'operazione che normalmente si chiama beneficio dell'umanità a favore di un'amica e probabilmente su questo ha tratto qualche lezione di vita. Caro Gianluca, è qualche settimana che ascolto il suo programma e non le nascondo che l'ultima parte, quella dedicata alle mail degli ascoltatori e soprattutto ascoltatrici, mi piace particolarmente, sia per le storie che riceve, sia per l'imprevedibilità dei suoi commenti un po' tranchant, che però apprezzo perché tutt'altro che buonisti e ancor meno compiacenti verso chi scrive. La settimana scorsa mi è capitato qualcosa che penso la possa interessare e che le presento come esempio della ineliminabile soggettività con cui viviamo e comunichiamo fatti e relazioni in cui siamo coinvolti. O più banalmente, reinventiamo a piacimento. La storia è questa. 10 giorni fa ho organizzato una cena a casa mia qui a Milano con una decina di persone, per lo più amici, tra cui una mia amica single quarantenne, sicuramente una bella donna, e il vicino di casa che è venuto a vivere nel mio palazzo da pochi mesi, fresco di separazione. Mi è sembrato carino invitarlo, visto che dalle chiacchiere fatte qualche volta incontrandoci nel palazzo, è sembrato a me e al mio convivente piuttosto simpatico e cordiale. Dunque a cena i due si sono conosciuti, hanno simpatizzato e si sono risentiti nei giorni successivi decidendo di uscire una sera insieme. Il giorno dopo la loro uscita incontro in ascensore il mio vicino, il quale mi dice di essere andato a cena con la mia amica e di essere stato molto bene, di aver intuito che lei fosse interessata a lui. Dentro di me penso che forse sta nascendo una storia. Ma subito dopo, lui aggiunge con tono dimesso e quasi sofferente di averle detto con un certo rammarico che il terremoto sentimentale da cui sta uscendo ancora non lo fa ben predisporre per una nuova relazione. Mentre mi racconta questo, penso tra me e me che il suo mi sembra un atteggiamento un po' contraddittorio, perché non inviti una donna a cena per dirle che non vuoi storie, o no? O forse, più subdolamente, è una strategia per dire che si è interessati solo a una storiella senza impegno? Un perfetto esempio di come mettere le mani avanti senza voler rischiare, ma vabbè. Penso anche che la mia amica è adulta e vaccinata e può benissimo scegliersi anche di vivere una relazione, diciamo, più superficiale. Sì, so, mi raccontano perlomeno le persone che, a differenza di me, ancora hanno palpiti e desideri, che funziona molto tra amici e amiche oggi, anche se non proprio in tenera età, diciamo in fase di post-menopausa avanzata, di presentarsi fra amici e amiche. Cioè, c'è un'amica tanto brava che sta sola, È una donna che ha tanto bisogno d'amore, appena uscita da una storia molto dolorosa. Perché non uscite a cena? Oppure, c'è un amico tanto bravo, poverino però è stato tanto sfortunato, adesso è tanto solo, è un bravo ragazzo. Perché non vi vedete usciti a cena? Chissà perché bisogna sempre andare a mangiare assieme. Chissà perché per andare a letto prima bisogna mangiare. Chissà perché per sfogare, scaricare le basse viscere bisogna riempirne altre viscere. Eppure, anche questa volta, c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Il ragazzo, c'era magari 40 anni, 50 anni, oggi sono tutti ragazzi, dice che in realtà sì, l'incontro c'è stato, ma non ha avuto poi l'esito che lui pensava. Perché? Perché è diversamente occupato. Ma in realtà cosa ha detto l'altra persona? Qual è stato l'altro punto di vista? Passa un giorno e mi sento al telefono con la mia amica. E anche lei mi racconta della serata e qui, colpo di scena. Lei mi racconta tutto uno svolgimento della cena completamente diverso. Mi racconta di un uomo dall'aria spavalda e sbarazzina, che tra un bicchiere e un altro ci provava in modo verbalmente esplicito, che le ha detto che era separato, sì, ma che già non gliene fregava più niente della moglie. E apoteosi del suo gallismo esibizionista, a un certo punto le avrebbe detto con una certa nonchalance di soffrire di priapismo, per cui le sue performance sessuali erano di un livello superiore a quello di un pornostar. La mia amica ha avuto la leggerezza di fargli una battuta e poi ovviamente l'ha chiusa lì. Ma non è bastato. Lui il giorno dopo l'ha richiamata ancora per invitarla a casa sua, ma lei a quel punto gli ha fatto capire chiaramente che non era aria e che dunque non era affatto interessata a lui. Beh, esattamente l'opposto di quanto lui mi aveva riferito. Oh boh, questa è veramente singolare. Non l'avevo mai sentita. Fra le tante fandonie, leggende, millanterie da Milius Gloriosus che si raccontano nei secoli alle donne per fare colpo, quella di paventare una sorta di priapismo che rende la propria appendice virile una sorta di colonna antonina incrollabile, mi sembra un po' difficile, anche perché poi all'atto pratico uno dovrebbe dimostrare quanto sia veritiera questa patologia, che esiste veramente, una patologia dolorosa, mi sono informato, ho letto su Wikipedia, non è certo un piacere avercela, però in effetti è sempre meglio che passi un treno e ti tranci tutto all'altezza dell'inguine. Però una volta che lui ha denunciato questo tipo di attività, cosa si aspettava? Probabilmente si aspettava due cose. Si aspettava, visto che non aveva tempo da perdere con l'amica così romantica, così poetica, così bisognosa d'amore che le era stata presentata, ha detto: questa o gli dico che io c'ho sotto una sorta di martello pneumatico, questa capisce l'aria, dice va bene, andiamola a provare e quindi la concludo stasera, o rimane talmente indignata da questa cosa che la cosa finisce così, ma tanto meglio, così non perdo tempo. Ora, poiché conosco la mia amica da 10 anni e di lei mi fido, non ho nessun motivo di credere che mi abbia mentito e ritengo invece che la versione falsa della serata sia quella di lui. Ora, non pensi che questa vicenda sia comunque emblematica, come dicevo all'inizio, per il modo in cui noi ci raccontiamo e raccontiamo agli altri quello che ci riguarda e che ci aggiustiamo le cose per renderci la realtà più digeribile? Ma non è più utile anche per un uomo a volte ammettere di aver ricevuto un no dalla vita? Ma no, mia cara, un uomo non accetterà mai di aver ricevuto un no, ma anche tante donne, sai, c'è sempre una giustificazione: non mi meritava, non ha capito quanto in realtà mi amasse e non è stato capace di prendersi le sue responsabilità. Una donna non ammette mai: no, non c'è stato con me perché non gli piacevo. In realtà la verità molte volte una persona non piace. Quest'uomo in effetti ha provato la sua millanteria da copulatore compulsivo, che sa che conviene sempre andare dritto per lo scopo e si lavora sul numero. Se tu lo chiedi direttamente a 100 donne o a 100 persone, tu sai esattamente che c'è una percentuale ti dirà di sì. E se tu fai romantico, tu parli del vino, parli della tua vita, dei dolori della tua vita, di quanto il tuo animo è macerato, insomma, perdi tanto tempo e rimandi probabilmente a successivi appuntamenti quello che per te è l'unica cosa fondamentale per cui esce una donna, portartela a letto. Quindi è molto facile che l'amico ti abbia mentito, cara ascoltatrice, non abbia ammesso che in realtà lui ha questa sorta di grimaldello infallibile. Quindi tante amiche tu gli presenterai, a tante lui dirà che ha questa malattia che glielo fa stare sempre duro, e le tue amiche, quando non te lo diranno più e non te lo racconteranno, vorranno dire che farà parte di quella schiera di donne che ha voluto andare a vedere le carte e probabilmente ha trovato l'asso vincente. your sunshiny morning. Stand on the edge of a stream. We'll go walking together in a magical mystery dream. Moving through legends and stories, early mist swirling the day. Hey, now lost in the noontime, watch the sun. Kaleidoscope colors the day. Keep running till we are breathless and laughing all of the way. Weep through the forest, softly we walk through the hay. Summer's haze, wrapped in the sweet.